denaro, merce e denaro, mentre io muovo il suo macchinario. Merce e denaro, merce, qualcosa dal macchinario c'esce. Denaro, merce e denaro, ma io non ne sono il proprietario, no. Del budget, è sicuro ma com'è che il suo culo non cade, lei è molto efficace, mi gira sulla braccia di un contratto che scade, posso solo una domanda, ma non voglio una risposta, non mi va ad ascoltarla, quanto le costa fare un viaggio, e invece avere il coraggio di guardarmi in faccia? E io sono il braccio e lei la mente, io lo faccio e lei lo vende, ma sappio farlo, saprei, indipendentemente da lei. Mentre lei senza di me non è niente, se io non faccio, lei non vende. Io lavoro dalle 9 alle 6, ma sono io che do il lavoro a lei. Sì, sì. Merce, denaro, merce, il suo profitto cresce. Denaro, merce, denaro, mentre io muovo il suo macchinario. Merce, denaro, merce, qualcosa dal macchinario c'esce. Denaro, merce, denaro, ma io non ne sono il proprietario, no. Merce, denaro, merce, il suo profitto cresce. Denaro, merce, denaro, mentre io muovo il suo macchinario. Merce, denaro, merce, qualcosa dal macchinario c'esce. Denaro, merce, denaro, ma io non ne sono il proprietario, no. Merce, denaro, merce, il suo profitto cresce. Allora, siamo qui a Firenze, 25 marzo, insorgiamo manifestazione dei compagni della GKN, siamo con Angelo Nappo, un operaio della GKN. Allora Angelo, siamo qui in piazza, manifestazione. Dacci qualche novità. Allora, buonasera a tutti coloro che riceveranno questa intervista. Noi siamo di nuovo in piazza a testimoniare la nostra dignità. Stiamo percorrendo per le strade di Firenze dopo quel famoso 9 luglio dove siamo stati umiliati con un'assurda lettera di licenziamento collettivo, non dovuto all'effetto post pandemico, ma soltanto per un gioco dell'arroganza del potere economico di una finanziaria che aveva deciso di chiudere dall'oggi a domani con un'email l'azienda per trasferire in un'altra nazione dove il costo della manodopera era notevolmente inferiore. Dopodiché abbiamo comunque avuto un nuovo imprenditore che era un advisor proposto dall'azienda che è diventato proprietario, Borgomeo, il quale con l'AQF ci ha illuso dicendo che dovevamo avere fiducia in un futuro. A distanza di un anno siamo di nuovo qua a manifestare perché quella proposta industriale non è venuta e addirittura è stato usato uno strumento di ricatto che va oltre tutte le organizzazioni sindacali, non pagandoci più gli emolumenti dello stipendio. Quando quanti mesi? Noi non percepiamo lo stipendio dal 9 ottobre. 6 mesi. Bravo. Senza nessuna giustificazione, poi ci fu fatta un'email che c'erano degli intoppi burocratici che a breve sarebbe stato ripristinato lo stato dei pagamenti, cosa che non è avvenuta, anzi è stato usato come arma poi ricattatoria per far sì che lui potesse avere la cassa integrazione approvata dal governo, cosa che è avvenuta il 10 marzo scorso, gli hanno accordato la cassa integrazione retroattiva dal 1 gennaio fino al 9 ottobre e invece noi ancora nulla. Se questo deve essere uno strumento per favorire un negoziato, siamo proprio all'antitesi di quelli che sono i diritti dei lavoratori. Restare senza stipendio non lo augura a nessuno, come monoreddito ho dovuto interrompere un mutuo, rateizzare le bollette e umilmente mi sento anche ancora una volta calpestato e umiliato nella mia dignità. Ringrazio tutto il popolo di Firenze che ha compreso la nostra storia e oggi, nonostante tutto ciò, è di nuovo vicino a noi. Io ho visto il comunicato che è stato fatto dal collettivo della GKN per quanto riguarda una campagna di crowdfunding, no? Sì. Ci puoi spiegare un attimo di cosa si tratta? Ma si tratta tutta di una serie di progetti come la stessa SOMS che una società di mutuo soccorso per intervenire nelle piccole esigenze temporanee, perché chiaramente non avendo molti fondi, e poi soprattutto fare una sottoscrizione per sviluppare dei progetti che stanno andando avanti con l'aiuto anche della Regione, che speriamo che stavolta ci appoggi, perché al momento le istituzioni, il governo sono totalmente assenti, e mi dispiace dirlo, anche il sindacato ora è assente, perché questa manifestazione è totalmente organizzata da noi e il nostro ruolo non è quello di scendere in piazza, il mio ruolo è quello di stare davanti a una fabbrica per produrre, non quello di manifestare per una giusta lotta, per amor di Dio. Però il nostro ruolo, il ruolo di operai, è quello di difendere quella che è un'azienda che al momento è chiusa. Qua stiamo parlando della FIOM, chiaramente, che è vacante, insomma. Non è che è vacante, è che non ci appoggia totalmente, perché sinceramente ci vuole un segnale bello tosto. Cioè io al rapporto con l'istituzione non devo andare l'RSU, ci deve dare una FIOM a dire queste persone come fanno a campare. È impossibile andare avanti senza uno stipendio. Certo, e anche avete avuto solidarietà anche dalla Chiesa Cattolica su questo. Da tutti, ma soprattutto dal popolo di Firenze, come dicevo. Ora abbiamo fatto una società di raccolta di fondi, in 3 giorni abbiamo raccolto oltre 20.000 euro. Ottimo. E si spera di raggiungere una cifra di 75.000 euro per far partire dei progetti industriali. Questi progetti di cosa parlano? Uno lo vedi di fronte, che sarebbe la cargo bike. Ah, vuoi fare una foto? Sì, come no. E poi altri sono in coesione con un'azienda tedesca di pannelli fotovoltaici di ultima generazione. Come vedi, la RSU non si ferma soltanto a delle ipotesi, ma va sul concreto. Certo. Sostituendosi a quello che dovrebbe essere la politica industriale di un governo. Ah, questa è una cosa interessante. Dunque voi state puntando sul green, nel senso che riconvertire l'azienda producendo biciclette elettriche, cargo bike, pannelli fotovoltaici. Tutto ciò che diciamo. Dunque partirà anche una specie di crowdfunding verso gli investitori. Certo. Che qui chiedete agli investitori chi vuole investire nel vostro progetto. Ma anche l'adesione di parecchie figure, nonostante diciamo che siamo identificati come un movimento rivoluzionario, il nostro collettivo non viene ben visto. Come vedi, le nostre manifestazioni sono totalmente pacifiche, non c'è nessuna invettiva contro qualcuno, c'è soltanto una rabbia. E abbiamo avuto la testimonianza e il favore di figure storiche, letterati, ex sindacalisti e anche alcune aziende che sono invogliate a proporsi come aiuto non solo economico ma a sviluppare un progetto industriale. Non ultimo, è stato detto l'altro giorno, c'è questo barone che vuole investire nelle auto di ultime generazioni e soprattutto di motori elettrici. Speriamo che vada bene, però al momento, come si dice in gergo, le chiacchiere non fanno testa. Infatti voi avete bisogno di cose concrete, avete bisogno di fatti concreti, perché sono 6 mesi che vi pagano lo stipendio. Non solo fatti concreti, ma ora come ora, ti devo essere sincero, abbiamo bisogno di liquidità. Non si può andare avanti facendo solo rinunce. Si arriva al paradosso di limitare anche le spese del cibo. Io ho dovuto rinunciare a una visita medica perché mi costava 80 euro. Ho dovuto spostarla più in là nel tempo. Questo dunque, c'è anche una richiesta anche a livello istituzionale, che non è possibile che i lavoratori si trovino in queste situazioni senza reddito. Sappiamo benissimo cosa stanno dicendo questo paese, no? Hanno tolto il reddito di cittadinanza, ma non ci sono nemmeno ammortizzatori sociali per chi è nella vostra situazione. Ma obiettivamente, se vai a chiedere a qualcuno di noi chi siamo, nessuno di noi ti sa rispondere, perché non possiamo avere l'ausilio della cassa integrazione perché non c'è stata concessa e autorizzata. Non possiamo essere percettori di NASPI perché non siamo stati licenziati, e qualora avessimo requisiti per poter accedere al reddito di cittadinanza non lo possiamo neanche chiedere. E allora io chi sono? Per lo Stato voglio sapere io chi sono. Sono un emerito sconosciuto ed è impossibile in una nazione come l'Italia che avvenga ciò. Nessuno, io ho avuto un incontro con il presidente della regione, ma era amichevole perché mi ha invitato nel periodo dell'inizio dell'anno, spiegandoci la nostra situazione, e lui disse: caspita, figuriamoci quanti Angelo Nappo stanno in questa situazione. E io dissi: ma è compito vostro, della politica, risolvere i problemi, non nostro. Io più di questo sinceramente non so cosa possiamo fare, non è che mettiamo a fuoco e fiamme una città. Anzi, voi state solo rivendicando i vostri diritti e proponendo un'alternativa, che è quella che i lavoratori si rimboccano le maniche e comunque vanno avanti, cercano di andare avanti. Certo. Cercano soldi, perché comunque servono soldi per poter andare avanti. Ma io, nonostante che non abbia i soldi per mettere la benzina in auto, la settimana scorsa sono andato con i miei colleghi a fare le pulizie all'interno dello stabilimento, perché uno stabilimento, essendo fermo, comunque tutti... le macchine che erano sotto pressione, olio, tende ad uscire. Certo, quindi. Cioè, io lavoro in fabbrica, lo so. E abbiamo messo a posto, e nessuno lo dice, non è che noi stiamo mettendo a soqquadro l'azienda, perché quello è un bene. Ma la domanda che vi faccio è: le produzioni che vorreste fare, no? Dei pannelli fotovoltaici, anche delle bici elettriche, dove le fareste? Nella fabbrica dove c'è la possibilità di far questo? Se ci danno l'ok, sì. Ecco, l'ok da chi deve arrivare? L'ok credo dalle istituzioni. Ok. Soprattutto da chi è preposto ora a instaurare un dialogo con la vecchia proprietà, visto che ha messo il liquidatore, a dire: ci sono dei progetti, okay. C'è l'avallo delle istituzioni, c'è anche la fiducia delle istituzioni, facciamolo partire. Ma anche noi saremmo disposti pure a partire fra breve, ma sinceramente bisogna comunque liberare l'azienda dai macchinari vecchi, che comunque certo. Fanno parte del patrimonio. E non lo potete fare così, bisogna ci sia tutto il processo istituzionale previsto, che di questi macchinari, dopo l'ingiunzione a pagamento, sono stati pignorati dall'ufficiale giudiziario. Quindi se non interviene un ufficiale giudiziario con l'avallo del giudice, dell'amministratore di liquidazione, nessuno può intervenire a mandarli e farli uscire fuori. Ho capito. Dunque state aspettando questa azione, che le istituzioni si muovano e si mettano in campo seriamente per poter credere nel vostro progetto e risolvere il problema economico, innanzitutto. Il problema è che siamo da 6 mesi così. Ecco. Il prossimo è il 7° mese e le bollette, l'amministrazione del condominio, quelle ci sono. Noi vi appoggiamo in questa campagna di crowdfunding, cercheremo di pubblicizzarla in tutti i modi come possiamo, e vi auguriamo in bocca al lupo e saremo sempre con voi, perché se resistete, riuscite a ottenere dei risultati, tutta la classe operaria italiana sarà sicuramente contenta. Ma di questo io ti posso garantire che io ho compiuto da poco 61 anni, purtroppo devo andare in pensione al raggiungimento dell'età di 67 anni, quindi comunque per 6 anni devo continuare a lavorare. In questa situazione mi sono trovato all'inizio un poco sconvolto, però ora sono contento, perché una manifestazione del genere fa ricredere che ci sta un popolo che comunque si muove, che vuole ottenere non solo il riconoscimento dei diritti, ma un riconoscimento di cose basilari, perché che se ne dica, il reddito da lavoro dipendente è quello che ci consente di poter vivere, certo. Anzi direi sopravvivere. Dunque, la gente con voi, le organizzazioni di sinistra sono tutte qua, alcuni sindacati anche, il territorio è qui con voi, l'ha dimostrato in tanti modi, avete solidarietà di tanti lavoratori italiani, c'è bisogno anche che il sindacato si muova, l'appello che tu fai è a prendere a carico le vostre richieste. Vi saluto e bocca al lupo, sono con voi. Grazie. Ciao. E io non so se questo è il giorno, io so che abbiamo l'obbligo di provare a insorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, perché altrimenti non ci salviamo. E Firenze, suoniamo la martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi, insorgiamo insieme. Nelle piazze, nelle fabbriche, vite spezzate dai rumori delle macchine, lottano uniti gli operai e le operaie, lotta di classe, mentre il padrone infame gonfia bene le sue tasche. Lo Stato è complice da sempre per fermare questo scempio che va avanti già da tempo, non ha fatto niente, sta dalla parte dei potenti con le mani in pasta. Scendiamo in strada tutti uniti, se a gridare basta, basta un'email per mandare a casa tutti quanti sottopagati in mezzo ai campi con i visi sfatti, per le multinazionali siamo i nuovi schiavi. Paghiamo zero, siamo numeri immatricolati. Siamo i figli della nuova resistenza. Costi quel che costi, fino all'ultima vertenza. Pronti a insorgere, con la rabbia pronta a esplodere. Mentre il vento soffia forte. Ci terrorizzano, delocalizzano. Ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo. Insorgiamo dando vita a un fronte unico. Ci terrorizzano, delocalizzano. Ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo. Insorgiamo dando vita a un fronte unico. Recrudescenza costante del capitale. La coscienza che si espande tra le fabbriche operaie. La lotta in vita nella piana, colgo la sua essenza. Costi quel che costi fino all'ultima vertenza. Sei solo un numero, che importa tu chi cazzo sei. Di punto in bianco verrei licenziato da un'email. Per i miei figli vivo dentro il posto di lavoro. Per insegnarli cosa sia la dignità di un uomo. Si canta e si resiste, un altro turno finisce. Dentro il tempo si è fermato come a Chernobyl. Cadendo poi si vince, quanto ti inorgoglisce. Sapere che fino alla fine tu rimarrai qui. È la rivolta dei dannati di una notte eterna. Perché i padroni giocano con la tua sofferenza. L'11 agosto come il giorno della ricorrenza. Classe operaia insorge e suona la tua martinella. Ci terrorizzano, delocalizzano. Ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo. Insorgiamo dando vita a un fronte unico. Ci terrorizzano, delocalizzano. Ma che fatica che ti chiedo, resta qui con me. Se a questo giro lottare ti pare minimo. Insorgiamo dando vita a un fronte unico. Oh, buttamola, fino a che ce ne sarà. Che fatica che ti chiedo, oggi devi scioperare. E avanti insieme, uniti a lottare, tutta la settimana la passo lì con te. E non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce dentro me. Oh, buttamola, fino a che ce ne sarà. Che fatica che ti chiedo, oggi devi scioperare. Allora, avete ascoltato il pezzo di Tenore, un rapper che è molto vicino ai compagni del CKN. Il 25 marzo era in manifestazione, c'è sempre, sempre insieme ai ragazzi. Prima di lui avete ascoltato l'intervista di Angelo Nappo, un operaio della CKN, un classico operaio meridionale immigrato a Firenze, come io sono immigrato a Bologna, lui a Firenze. Ora, chi si fosse perso l'intervista, ricordo a tutti che potrà trovare nella pagina di Facebook Il Pane Rose la puntata, e dunque può ascoltarla lì. Ora, io non ho nulla da aggiungere, vorrei solo spiegare a tutti che in questo momento è la manifestazione di Firenze, è servita a dire alle istituzioni: noi abbiamo un progetto, abbiamo bisogno di poter utilizzare lo stabilimento. Bisogna che Borgomeo vada via per poter così liberare lo stabilimento, per poter iniziare a produrre cose green, cose che possono essere utili alla società di oggi, come i pannelli fotovoltaici, bici elettriche, cargo bike e tante altre cose. Perché gli operai della GKN vogliono lavorare, vogliono produrre, e questo progetto prevede un crowdfunding iniziale di raccolta di fondi. Poi prevederà un altro tipo di crowdfunding per creare questa cooperativa, perché alla fine creeranno una cooperativa. E poi una cosa molto che si usa molto in questo periodo per queste nuove startup che partono in maniera cooperativa, che prevedono proprio in cui uno può, nel momento in cui versa i soldi, ottiene anche il prodotto che viene effettuato da quella, insomma, questo sarebbe il progetto. Chiaramente qui ci spiegheranno i compagni se dovesse andare in porto, perché ripeto, ci sono dei problemi istituzionali e le istituzioni, diciamo, ad oggi sono ancora un po' tentennanti. Ci sono imprenditori che vogliono investire, loro hanno tanti progetti, c'è un sistema di scouting che è partito, che sta funzionando molto bene, organizzato dai lavoratori del GKN, tutto è organizzato. Il sindacato, così come avete sentito, è un po' latente, non completamente, erano presenti comunque i dirigenti della FIOM alla manifestazione, però i lavoratori, purtroppo questa è una cosa molto brutta, non sentono proprio il sindacato proprio al loro fianco completamente. Questo, io faccio un appello alla FIOM a credere in questo progetto e a spingere perché le istituzioni e la regione Emilia Romagna faccia in modo che Borgo Romeo se ne vada a fanculo, scusate proprio il francesismo, e i lavoratori possono prendere possesso anche in affitto con lo stabilimento per poter partire con i loro progetti. Ecco, questo è l'appello che facciamo. Chiaramente io sono per la nazionalizzazione sotto il controllo operaio, sarebbe stato molto meglio sempre sotto il controllo operaio, perché se dobbiamo nazionalizzare così come abbiamo fatto con l'ILVA, se deve arrivare, se togliamo un padrone arriva lo Stato, che è peggio spesso dei padroni, non è il caso. I lavoratori della GKN hanno preso in mano il loro destino, noi siamo con loro sempre, gli auguriamo una buona fortuna, poi questo crowdfunding noi parteciperemo, pubblicizzeremo in tutti i modi, mi raccomando, sulla nostra pagina di Parole Rose troverete come aderire a questo crowdfunding, sosteniamo i compagni e insorgiamo insieme a loro. A presto! Sorgiamo, sorgiamo come il sole al mattino.